Sul numero 3 del 2022 di Rivista Militare c'è un articolo di Niccolò Lucarelli sull'Istituto Geografico Militare e i suoi 150 anni dalla fondazione. L'attuale Istituto Geografico Militare nasce nel 1872 come Istituto Topografico Militare, ma in realtà già da 11 anni esisteva una struttura che in seno al Regio Esercito si occupava di cartografia. Infatti, circa due mesi prima dalla proclamazione ufficiale dell'unità, il servizio tecnico del Corpo di Stato Maggiore dell'Esercito riunì l'ufficio topografico dello Stato Maggiore Sardo, il Reale Ufficio Topografico Napoletano e l'Ufficio Topografico Toscano, sfruttandone le competenze acquisite sul campo in tanti decenni di attività. Un atto amministrativo, certo, che però contribuiva a cementare la nascente identità nazionale, che passa anche attraverso la condivisione delle conoscenze tecniche e culturali delle varie zone di un paese. Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze nel 1865, anche l'ufficio topografico cambiò sede per installarsi nel comprensorio di via Cesare Battisti, che lo accoglie ancora oggi. I cambiamenti non erano finiti perché il Regio Decreto numero 1084 del 27 ottobre del 1872 assunse la denominazione di Istituto Topografico Militare. Oltre ai 10 anni di unità imponevano al Paese di dotarsi di una cartografia completa del territorio nazionale per scopi sia civili che militari, ma anche a fini identitari. A livello simbolico, infatti, studiare o anche solo osservare la carta del proprio paese è utile per meglio fissare nella propria mente un'idea politica e non soltanto geografica, in un periodo tra gli anni 60 e 70 dell'Ottocento in cui la coscienza nazionale italiana si stava ancora formando. Nel 1872 il governo del primo ministro Giovanni Lanza affidò con un'apposita legge tale compito all'Istituto Topografico Militare. Successive leggi approvarono nel 1875 il progetto finale e il suo finanziamento. Il lungo lavoro di rilevamento vide la luce a partire dal 1879, quando furono pubblicati i primi fogli sui 277 totali della Gran Carta d'Italia, alla scala di 1 a 100.000, che fu completata solamente nel 1903. Dapprima in bianco e nero, le carte furono pubblicate a partire dal 1900, anche in monocromia e policromia. Seguirono poi altre carte italiane dalla scala 1 a 25.000 e 1 a 50.000. La prima trae origine dalle vicende della carta 1 a 100.000, durante la redazione della quale alcune zone d'Italia che rivestivano particolare interesse militare furono cartografate appunto alla scala 1 a 25.000. Sulla base di questo primo materiale, nel 1878 il Parlamento approvò una legge per estendere quei rilevamenti a tutto il territorio nazionale. La carta alla scala 1 a 50.000 invece fu pubblicata in tre distinte versioni, militare, civile e classificata. Costituisce oggi ancora uno dei principali documenti dell'Istituto. Con la legge del 29 giugno del 1882 l'Istituto Topografico Militare divenne Geografico Militare, denominazione che lo contraddistingue ancora oggi. Sin dall'inizio all'Istituto lavorava personale misto, sia civile sia militare. E fra i primi illustri collaboratori civili furono anche Enrico Pucci, Giovanni De Bernardinis, negli anni 70 dell'Ottocento, oltre a Federico Guarducci, che vi lavorò dal 1876 al 1903, e Attilio Mori, dal 1886 al 1915. Con l'inizio dell'avventura coloniale risalente al 1882, l'IGM estese la sua attività in Africa e nel 1885 cartografò i territori di Assab e Massawa, in Eritrea. Poi, a seguito di due missioni, una nel 1887 e l'altra nel 1896, nacquero rispettivamente la carta dell'Eritrea alla scala di 1 a 50.000 e 1 a 100.000. Testimonianze non solo geografiche ma anche storiche, in un periodo che ha visto l'Italia partecipare attivamente al fenomeno del colonialismo. Con lo scoppio della Grande Guerra, l'Istituto fornì al Regio Esercito le carte dei territori attraversati dal fronte. Tornata la pace, dal 19, ci si occupò di cartografare le regioni appena annesse al Regno d'Italia, il Trentino e la Venezia Giulia, completando l'immagine geografica dell'Italia registrando i mutamenti della storia. Il metodo sin qui utilizzato per la mappatura del territorio è quello delle reti geodetiche realizzate con il metodo della triangolazione. Con gli anni 20, però, e gli importanti progressi raggiunti dall'aviazione, anche l'IGM fece ampio uso della fotografia aerea, come ancora oggi testimonia la ricca collezione di ben 300.000 pezzi databili fra il 27 e il 2010. Negli anni del fascismo l'IGM mantenne i suoi compiti istituzionali consistenti nell'impianto, l'aggiornamento e la manutenzione delle reti geodetiche e nella produzione della cartografia ufficiale dello Stato, alla piccola e media scala. Ma il regime volle anche investirlo dell'attuazione del processo di italianizzazione della toponomastica nelle zone di confine italiane, così come nelle colonie in Africa. Un compito più politico che geografico, cui però l'istituto non poté esimersi. Con la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre, la nascita dell'effimera Repubblica Sociale Italiana, l'istituto venne trasferito a Dobbiaco, dove rimase fino al 1945 e dove rischiò di vedersi sottratto dai tedeschi in ritirata tutto il prezioso patrimonio storico. Eventualità per fortuna scongiurata dalla fretta con cui la Wehrmacht devalicò le Alpi, incalzata dalle forze anglo-americane. Gli anni 50 videro l'IGM completare la grandiosa impresa della Carta d'Italia 1:25.000, potendo contare anche sui finanziamenti provenienti dal Piano Marshall. E nel 1960 la legge numero 68 del 2 febbraio riconosceva ufficialmente all'Istituto il ruolo di organo cartografico della Repubblica Italiana, oltre che di ente di supporto alle forze armate. Fra i compiti principali del moderno IGM, oltre a quelli già indicati in precedenza, ci sono la copertura aerofotogrammatica del territorio nazionale, la costituzione e la gestione delle banche dati geografiche nazionali, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio cartografico strumentale e librario del Museo della Biblioteca, la formazione professionale degli addetti e la diffusione della cultura geografica e cartografica. Sul finire degli anni 90 del Novecento, l'IGM ha attuato una profonda trasformazione produttiva passando dall'analogico al digitale per soddisfare le necessità di elaborare dati sempre più raffinati e trasmessi in tempo reale. Inoltre, si è superato l'abituale concetto di scala per focalizzarsi sull'informazione completa, omogenea, accurata sul territorio nazionale. In quest'ottica, l'IGM sta lavorando alla creazione di un nuovo database topografico nazionale, DBSN, in cui confluiranno tutte le informazioni geografiche di nuova produzione, incluse quelle ottenute dalle prime applicazioni dell'intelligenza artificiale. L'IGM ha quindi il nuovo compito di costituire e gestire le banche dati geografiche nazionali. Di notevole spessore tecnico sono inoltre le attività di supporto alle forze armate, svolte con la creazione del GeoTagPrint, nuclei geografici campali di assetto variabile a seconda delle esigenze proprie di ciascuna missione, che vengono all'occorrenza impiegati in zona di operazioni. Tali nuclei hanno operato nei Balcani, in Albania, in Libano e in Afghanistan, fornendo in tempo reale alle unità impegnate sul campo geoinformazioni mirate e altamente specialistiche. Ma l'IGM non è soltanto un'importante istituzione logistica delle forze armate, è anche un importante polo culturale in virtù della sua biblioteca, dalla collezione di carte topografiche e di strumenti. La biblioteca, intitolata ad Attilio Mori, è ospitata nei suggestivi ambienti che già appartennero al convento della Santissima Annunziata, ambienti fra i quali spicca il grandioso salone affrescato nel 1694. Suggestivi ambienti storici che custodiscono ben 120.000 volumi di geografia, geodesia, cartografia, topografia, astronomia, esplorazioni, antropologia, etnografia e urbanistica, oltre a una collezione di 700 atlanti dal 1570 ad oggi. È una cartoteca costituita da carte preunitarie e moderne, anche di provenienza estera. La biblioteca vanta anche numerosi pezzi antichi, fra cui due incunaboli, 22 cinquecentine, 19 edizioni del XVII secolo e ben 128 edizioni del XVIII. Fra i volumi di maggior pregio, l'Isolaria di Benedetto Bordone, Atlante delle Sole Isole nel 1547, il Teatro della Città d'Italia di Bertelli, stampato nel 1629, un'edizione veneziana delle Rime e Trionfi di Petrarca del 1488. Parimenti affascinante e prezioso il Museo degli Strumenti, che costituisce una collezione di oltre 400 pezzi databili dal XVIII secolo agli anni 50 del Novecento, costituita da strumenti per il disegno e per il calcolo, come planimetri, camere lucide, compassi e regoli calcolatori, strumenti e campioni di misura di lunghezza, strumenti comparatori. Un patrimonio di conoscenza tecnica che è parte della storia e della cultura del nostro paese.